Mr. Kilowatt, alla ricerca dell'energia perduta. Il gas dell'energia, potremmo definirlo così. Stiamo parlando del progetto che l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena sta portando avanti ormai da qualche anno. Io sono Maurizio Melis e con gas non mi riferisco al terzo stato della materia, insomma quello gassoso, ma a una sigla diffusa soprattutto nel mercato alimentare. Gas sta infatti per gruppo di acquisto solidale. Il ragionamento di fondo infatti è lo stesso: riunire più cittadini per conferire loro un maggiore potere contrattuale al momento di acquistare un bene. Solo che qui non parliamo di patate, frutta o pollame, ma di impianti fotovoltaici e anche di collettori solari termici. Ci facciamo raccontare tutto da Pier Gabriele Andreoli, vice direttore dell'agenzia e coordinatore del progetto Gasolare. Buonasera Andreoli, benvenuto a Mr. Kilowatt. Buonasera, grazie mille dell'invito. Dunque Andreoli, allora, intanto l'Agenzia per l'Energia e lo Sviluppo Sostenibile di Modena è un'associazione i cui soci sono tutti pubblici. C'è la provincia, c'è il comune di Modena e poi una serie di comuni limitrofi. Di quanti comuni stiamo parlando complessivamente? Ma al momento sono più di una ventina quelli della provincia di Modena. Poi appunto sconfiniamo anche, diciamo, nel perimetro attorno al nostro territorio. Dunque Andreoli, allora ci spieghi come funziona questo processo che avete messo in piedi? Allora, noi facciamo una prima serata in una sala del comune dove raduniamo tutti i cittadini, gli mostriamo, gli spieghiamo, rispondiamo alle domande su come funziona il fotovoltaico e tutte le procedure, dopodiché a chi è interessato noi andiamo a casa e guardiamo i tetti, facciamo cioè un sopralluogo. Dopodiché, fatto il sopralluogo, noi torniamo a casa con tutti i dati necessari, ogni tetto è diverso dall'altro, quindi necessita di un progetto ad hoc, facciamo il progetto, recuperiamo dagli installatori tramite una gara d'appalto dei preventivi, almeno 3 per ogni gruppo comunale di acquisto, diciamo, e li sottoponiamo al cittadino che a questo punto può decidere da solo la tipologia e il prezzo più adeguato. Ecco, questo sopralluogo, questo diciamo studio di fattibilità che voi fate andando a verificare appunto quali sono le condizioni dei tetti, l'esposizione, tutti questi parametri, ha un costo o è gratuito? Normalmente chiediamo 40 euro, che è un prezzo diciamo più così, per legarci più che per coprire i costi, ecco. Serve a garantire che insomma di non essere chiamati solo per curiosità, ma da qualcuno che effettivamente poi ha un minimo di interesse ad andare avanti, insomma. Anche se la serata iniziale noi rispondiamo a tutti, i cittadini hanno molte domande, come dico, passiamo lungo tempo con loro anche oltre la mezzanotte. Ecco, e una volta che avete consegnato questi preventivi, immagino siano 3 preventivi anche, sì, che hanno dei costi diversi, vi sfilate a quel punto o siete ancora presenti? No, noi siamo presenti lungo tutto il percorso, sicuramente diamo tutte le informazioni necessarie al cittadino per poter scegliere fra queste 3 offerte. Dopodiché noi continuiamo seguendo l'installatore, quindi seguiamo il cantiere fino alla fine dei lavori e ci occupiamo appunto personalmente della richiesta delle tariffe incentivanti, in maniera tale da portare il percorso alla fine. Praticamente finché l'impianto non è connesso alla rete e quindi non comincia a usufruire anche delle tariffe incentivanti, voi state lì. Assolutamente, state attenti. Anzi, il nostro obiettivo è proprio di farli tutti, ci siamo programmati in maniera di rispondere a tutti gli impianti che iniziamo, poterli allacciare entro la fine dell'anno e prendere la tariffa più alta, quindi questa è la nostra sfida. Ecco. Ecco, più o meno di quanti impianti stiamo parlando complessivamente? Avete fatto una stima, anche se è ancora in corso insomma l'operazione? Io forse sono sempre un po' ottimista, però probabilmente 500 impianti possono essere raggiunti con una potenza media di 3 kW, per cui potremmo ipotizzare di installare su copertura 1,5 MW, andare alla fine dell'anno, certo, con certo dei risparmi che effettivamente potrebbero aggirarsi rispetto al prezzo medio di mercato, potrebbero essere di un 20% inferiori, rispettando la qualità. Una cifra insomma significativa. Sì. Ecco, all'interno dell'agenzia quante persone sono occupate su questo progetto? Ma noi appunto dell'agenzia più lo studio tecnico Venturelli, che è il nostro partner tecnico in questa avventura, saremo circa una ventina di persone impegnate a diversi livelli, perché ci sono sia i tecnici, sia le persone che tengono i contatti, sia la parte organizzativa, quindi insomma un bel team, ecco. Ma sono 20 persone impegnate solo su questo progetto o sono 20 persone che come dire all'interno dell'agenzia poi svolgono anche altre attività? sono nel gruppo, queste si occupano ovviamente normalmente anche di altre attività, però in questo momento sono tutte concentrate su questo tema perché per noi è molto importante, ci teniamo anche molto. E anche perché tra un po' scadono gli incentivi più appetitosi, diciamo così. Anche se effettivamente poi anche il 2011, noi abbiamo idee nuove anche per il 2011, obiettivi specifici magari sui condomini, cioè andremo a trovare quelli che magari non sono riusciti in questi anni, andremo ad approfondire appunto altri temi interessanti. Questo modello che avete messo in piedi lì a Modena sembra insomma un modello abbastanza chiaro, è anche esportabile o ci sono delle condizioni particolari a Modena per cui si è riuscito a fare qualcosa che difficilmente si riuscirebbe a ripetere altrove? No, da quello che ho potuto vedere è un modello assolutamente replicabile, anzi ci chiamano anche da fuori regione proprio per scambiare idee. Il gruppo d'acquisto è un concetto abbastanza applicabile in generale. Questo modello non mi sembra abbia particolari difficoltà, effettivamente assolutamente esportabile. Oh, va bene, grazie Andreoli. Grazie, a presto, vi faremo sapere i risultati. Ci teniamo. Grazie. Per stasera è tutto, Mr. Kilowatt torna lunedì, parleremo di centrali a biomassa, parleremo di short rotation forestry. Buon fine settimana.